24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, le 7:21 minuti, cari ascoltatori, mancano 3 giorni e poi me ne vado in vacanza. E saluto intanto Fabio Cantadore in regia, con noi fino alle 9. L'Alpino l'hanno spostato, non lo so, non fa più le albe, gli alpini che dormono, non si capisce più niente qui. Allora, Etalino Milan, mi trovate così su Twitter, oppure @24mattino è l'account della trasmissione. Oggi avremo ospiti, abbiamo recuperato forse l'onorevole Razzi, che ieri era sperduto in Abruzzo tra le gallerie col suo cellulare. E poi parleremo ancora di provincia, avremo ospite Clemente Mastella, che ha chiamato il ministro Patrone Griffi a dire salva Benevento, fai capoluogo Benevento della neonata provincia che nascerà Avellino Benevento, per l'appunto. Avremo anche il presidente della provincia di Bergamo, Pirovano, della Lega, che ha dato lo sfratto alle prefetture. Insomma, ste province sono arrabbiate, non vogliono morire e la daranno vinta fino all'ultimo. E allora andiamo a vedere i giornali in edicola. Questo mercoledì 25 luglio i titoli, ovviamente le aperture, sono tutte dedicate sempre alla situazione economica e finanziaria europea, ben più grave, ben più seria delle facezze di cui parleremo noi. Allora, Il Sole 24 Ore, sale l'allarme spread, allerta della BCE, questo è il titolo di apertura. Per il Corriere della Sera, Spagna-Italia senza tregua, Repubblica, paura Europa, spread a 537. La Stampa, lo spread torna a far paura. Il Messaggero, Europa nel caos, i mercati affondano. Libero, mamma li crucchi. Il Giornale, emergenza Monti, situazione peggiore di quando Berlusconi passò le consegne. Avvenire, Madrid nel gorgo e senza voce. Mentre aperture diverse sono il Fatto Quotidiano sulla trattativa Stato-mafia, processate Stato e mafia, imputati Mancino, Mannino, Dell'Utri, Riina. Queste alcune delle aperture, mentre l'Unità sull'apertura politica, la maggioranza non c'è più. Questo il titolo. Io voglio partire però da una vicenda che oggi la Stampa in maniera meritoria riporta alla luce, cioè solo sulla Stampa. Vi ricordate la situazione personale di un ex dirigente della Regione Sicilia, Felice Crosta, che è andato in pensione, ha ottenuto una pensione grazie, dicevano i giornali, a una leggina approvata dall'Assemblea regionale appositamente quasi per lui un paio di mesi prima di andare in pensione. Era andato in pensione con 1.369 euro al giorno. 1.369 euro, una pensione che è un lusso anche per molti dei pensionati italiani al mese, però lui al giorno 496.000 euro l'anno. Ha fatto ricorso, ha detto la merito tutta, la regione invece aveva detto no, era stata fatta una leggina apposita che gliela raddoppiava perché cumulava due pensioni, una questione tecnica. Vabbè, la notizia è che è stato vinto il ricorso dalla regione Sicilia, dunque tagliata la pensione record. Così Laura Anello sulla Stampa, pagina 13, era diventata la storia simbolo della Sicilia sprecone, irresponsabile, regina dello sperpero, quella del recordman delle pensioni italiane, Felice Crosta, ex dirigente della regione con 41.600 euro al mese, 1.369 al giorno, appunto quasi 500.000 euro di pensione l'anno. Una cifra lorda, si intende, ma sempre d'oro, anzi di platino. Ieri però Crosta ha perduto il primato, sconfitto dalla Cassazione, che ha sepolto definitivamente il suo ricorso contro la Corte dei Conti, dove gli era stato dimezzato in appello il vitalizio, e quindi si dovrà accontentare di 227.000 euro l'anno. Commenta Laura Anello sulla Stampa, ce la farà, poveretto? E lui a suo tempo disse: mi rendo conto che questa cifra possa destare curiosità, interesse, magari anche un po' di invidia, ma è bene ricordare che non si tratta di un regalo. Sono in regione dal 61, sono laureato, ho vinto 3 concorsi mentre ero in servizio. Felice Crosta è stato da noi più volte chiamato, ci ha promesso che una volta terminato l'iter giudiziario avrebbe parlato. Domani, se vuole, è già ufficialmente invitato in questa trasmissione. Chissà se sarà con noi. A proposito di stipendi, ne abbiamo parlato anche degli stipendi della RAI. Il direttore generale Gubitosi ha fatto scalpore il fatto che abbia un contratto a tempo indeterminato, sebbene l'incarico del direttore generale della RAI sia chiaramente a tempo determinato, e così come lo stipendio della presidente Tarantola. Bene, buone notizie se volete italiani, oggi c'è il consiglio d'amministrazione della RAI, Tarantola si taglia lo stipendio e Gubitosi annuncia rinuncio al posto fisso. Beh, insomma, segnali positivi e bisogna sottolinearlo. Questo su Repubblica, pagina 14, beh, lo stipendio rimane comunque alto, rimarrà quello approvato per Gubitosi, 650.000 euro, mentre Anna Maria Tarantola comunicherà un taglio del suo stipendio in linea col tetto per i manager pubblici fissato a 294.000 euro, cioè quel famoso tetto fissato, mai applicato, non si capisce perché, se lo farà personalmente di fissarsi un tetto tanto di cappello, ma non è obbligata a farlo, dovrebbe essere la legge a imporlo. Così anche l'Unità titola a pagina 11, vertici RAI, stipendio autoridotto e Sipra nel mirino. La Sipra è la concessionaria di pubblicità, comunque insomma questioni più tecniche di spending review a Viale Mazzini. Comunque pare che Luigi Gubitosi anche voglia rinunciare al tempo indeterminato. A proposito di stipendi, è una storia ben diversa ma che sta suscitando dibattito, quello che avviene allo stabilimento di San Sisto a Perugia, al gruppo Nestlé, alla Perugina che appartiene al gruppo Nestlé. La proposta che l'azienda ha fatto ai dipendenti è questa: cari dipendenti, siete disponibili a ridurre il vostro orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali e quindi ridurre il vostro stipendio di conseguenza? Se siete d'accordo, noi assumiamo i vostri figli. È una proposta che sul quotidiano nazionale è vista così: Perugina, figli assunti in cambio dell'orario ridotto. La CGIL non ci sta, saremo tutti più poveri. Anche Libero la pone a pagina 18 come un primo tentativo di un contratto di solidarietà femminile. Se papà si taglia lo stipendio, la Perugina assume suo figlio. Ma la CGIL, scrive Libero, si mette di traverso, una proposta inaccettabile. Repubblica va con un inviato, Jenny Ermeletti, a sondare gli umori tra i dipendenti di San Sisto, in provincia di Perugia. Lo trovate la storia, pagina 21, padri divisi nella fabbrica di cioccolato, lascio il posto a mio figlio, anzi no. Racconta Meletti, un bicchiere di bianco al bar a fine turno, a me questa proposta piace, mio figlio ha 29 anni, non trova nulla da fare, un call center prima, la consegna di lettere per una posta privata, tutto il giorno in giro a sue spese per portare a casa 20 euro quando va bene. Con la proposta della Nestlé io avrei meno soldi ma anche meno ore di lavoro. Lui avrebbe finalmente uno stipendio, sia pure basso, e anche i contributi. Insomma, questa è la storia, per esempio, di raccolta, una testimonianza di un operaio. E scrive Meletti, fa discutere molto l'idea della Nestlé di trasmettere quasi in via genetica parte del lavoro dei padri ai figli disoccupati. I sindacati hanno già alzato le barricate, compatti, dicono che solo qualche disperato può accettare una cosa come questa. L'uomo che beve questo bianco al bar dice: per carità, non metta alcun nome, qui ci conosciamo tutti, l'altro giorno in assemblea tutti abbiamo detto no alla Nestlé, domani faremo anche sciopero, ma io credo che per mio figlio entrare qui sarebbe un passo avanti, sei assunto per pochi mesi ma intanto ti fai conoscere e se la crisi passa hanno già il tuo nome. Anche una sua collega, anche qui non nominata, viene nominata con la lettera A, punto, vorrebbe lasciare una fetta di lavoro e di busta paga alla figlia. Ci dice: io ho 57 anni, tagliare 10 ore alla settimana non sarebbe male, il lavoro non è pesante ma si fanno i turni, giorno e notte, poi la mia ragazza vorrebbe mettere su casa. Insomma, questa idea che fa molto discutere, passare il lavoro ai figli. L'azienda dice: non ci fermeremo a Perugia con questa proposta, in Italia abbiamo 5.600 dipendenti, fra di loro, anche qui in centrale, ci sono quelli che sognavano di andare a casa a 55 anni, invece devono aspettare una decina d'anni, anche a loro faremo discorsi simili a quelli di Perugia, magari non legati soltanto al passaggio dai padri ai figli. Potranno fare anche i tutor dei giovani e seguirli nei primi mesi. Beh, insomma, fa molto discutere la proposta. Riducetevi, cari operai, lo stipendio e se accettate noi assumiamo in cambio i vostri figli. Allora, le 7:35 minuti, la situazione in Europa, vuol dire anche in Italia, economica, finanziaria, è davvero difficile. Lo spread è salito a 537 punti, il differenziale, cioè sui titoli di rendimento, sui titoli italiano BTP Bund. Ricordate, lo spread è sempre questo, il differenziale tra i rendimenti e i titoli di Stato italiani con i Bund, che sono i titoli di riferimento in Germania. 537 punti. Beh, livelli molto alti, la situazione sembra di deriva, usa questa parola il Sole 24 Ore in prima pagina per Madrid, e tutto questo fa paura ovviamente ai mercati. Giustamente oggi il Sole 24 Ore, a maggior ragione, vi presenta anche una guida, 8 mosse in 4 pagine, le trovate da pagina 15-18 sotto il titolo «Come proteggere i tuoi soldi, cosa fare e cosa non fare». Durante la crisi, la difesa del risparmio degli italiani in 8 mosse, tutti i consigli giusti, perché in questi casi poi c'è il rischio anche di essere un po' presi, per chi magari ha titoli, ha investimenti, un po' dal panico, ovviamente, comprensibile. E allora come muoversi? A livello invece politico-finanziario, che cosa è successo nella giornata di ieri? Beh, c'è un Mario Monti, fa sapere Dino Pesole a pagina 4 del Sole 24 Ore, che, come cita il titolo, aspetta segnali dall'Europa. Il tema è sempre quello, massima vigilanza. Al momento la strategia di Mario Monti però non muta, scrive Pesole. E se, come ha ripetuto nell'attuale viaggio in Russia, il livello dello spread arrivato a 537, appunto, è in gran parte da attribuire ai dubbi che dominano nel mercato sull'efficacia dello scudo anti-spread, occorre lavorare per disinnescare quantomeno la parte di incertezza che deriva dalla variabile politica interna. A questo proposito, lo vedremo tra poco, Mario Monti ha convocato, riconvocato, ne sentivamo il bisogno, ABC, Alfano, Bersani e Casini, cioè i leader politici dei maggiori partiti che sostengono il suo esecutivo. Tra l'altro ieri c'è stato un giallo vero e proprio, che ha visto al centro soprattutto la Spagna. Forse in questo momento il governo spagnolo è certamente, anzi senza forse, quello più sotto la luce dei riflettori anche come rischio. E allora c'è stato questo giallo, il giallo raccontato da Beda Romano sul Sole a pagina 5, riguarda questo, il titolo è proprio questo, giallo sull'appello all'Unione Europea. Il governo spagnolo, vittima delle pressioni di mercato, ha provocato un nuovo incidente di comunicazione. Ieri infatti sul sito del Ministero degli Esteri è stata chiesta un'attuazione immediata delle decisioni dell'ultimo Consiglio europeo di giugno, coinvolgendo Italia e Francia. Cioè praticamente si è detto in questa ricostruzione, mentre erano a colloquio appunto i ministri di Italia, Francia e Spagna, sul sito del Ministero degli Esteri, come dire, si è chiesto un'attivazione dello scudo anti-spread e quindi di quello approvato dal Consiglio europeo, sebbene tra varie contestazioni, e Francia e Italia sono con noi, ha fatto sapere il governo spagnolo. Beh, la smentita dell'Italia, ricostruita anche da Alberto D'Argenio su Repubblica, pagina 7, racconta D'Argenio, è andata così: la gaffe spagnola sulla falsa iniziativa congiunta con Italia e Francia sullo scudo antispread ha molto irritato il governo italiano, a partire da Monti. Le cose sono andate così. Ieri a Bruxelles era in corso il Consiglio Affari Generali. I ministri europei, come da routine, hanno dedicato parte della loro discussione ai seguiti del summit dell'Unione Europea di fine giugno. Una dozzina di loro ha sottolineato la necessità di attuare rapidamente il piano della crescita da 120 miliardi deciso lo scorso mese dai leader. E quindi la discussione è scivolata su altri temi. Si può dunque immaginare lo stupore di Palazzo Chigi quando sui monitor compaiono i flash di agenzie che parlano di un'iniziativa congiunta sullo scudo antispread firmata da Italia, Francia e Spagna e dai ministri. Ovviamente è partita subito la telefonata da Palazzo Chigi alla Moncloa, cioè la sede del governo spagnolo, e di fronte agli interrogativi dei colleghi italiani, i collaboratori del premier spagnolo Rajoy hanno detto di non sapere nulla dell'iniziativa. Insomma, una vera e propria gaffa istituzionale che rischiava di gettare un po' il panico in tutto questo. D'altronde in Spagna la situazione è molto difficile, vi segnalo due articoli sul Corriere a pagina 5. Andrea Nicastro, il corrispondente da Madrid: anche Barcellona batte cassa, la Catalogna così orgogliosa della propria autonomia del proprio, della propria differenziazione da Madrid, ormai non fa mistero di nascondere la propria cancrena. L'orgogliosa Catalogna, scrive Andrea Nicastro, ha smesso di nascondere la necessità di finanziarsi a prezzi più ragionevoli di quelli del mercato. Il debito accumulato da Barcellona è di 42 miliardi, il più alto tra le regioni spagnole, e i catalani dunque vorrebbero ricevere da Madrid almeno il denaro che serve a rinnovare il debito alla scadenza nei prossimi 2 anni. E vi segnalo anche come articolo dalla Spagna l'inviato della Stampa Marco Alfieri a Ciudad Real racconta la storia, l'emblema, non ce li abbiamo solo in Italia, cari ascoltatori, anche in Spagna, degli sprechi, è il racconto di Don Quixote, l'aeroporto simbolo degli sprechi locali. È un aeroporto costato mezzo miliardo, è nella regione Castiglia-La Mancia, ha accumulato solo a debiti e ora è chiuso. C'è anche una foto di una praticamente pista di atterraggio piena di sterpaglie, racconta Marco Alfieri. Aeroporto internazionale Don Quixote, davvero una causa persa portare qui rotte e passeggeri nella campagna brulla vicino a Ciudad Real, 180 km sotto Madrid. Eppure c'è chi lo immaginava, progettato, finanziato, realizzato, piste da 4 km per i jumbo, terminal passeggeri e cargo, 24 postazioni check-in, negozi, torre di controllo avveniristico. Viene inaugurato nel 2008, costa 500 milioni di euro in previsione di un flusso di 2,5 milioni di passeggeri l'anno. Peccato che arrivano al massimo 54.000 passeggeri, si accumula presto un debito di 300 milioni, le compagnie aeree se ne vanno e tutto viene chiuso. Questa storia molto, molto emblematica che trovate raccontata sulla Stampa, pagina 7, Don Quixote, l'aeroporto simbolo degli sprechi locali, è anche un po' un simbolo della situazione spagnola. Ma vediamo a cose più italiane, vicine. Cari italiani, attenzione, c'è una tentazione che viene lanciata dai giornali. È stata lanciata, per la verità, non tanto dai giornali ma da Confesercenti, e che riguarda questo. È stata smentita ma in maniera poco convinta dal ministro alla pubblica amministrazione Patroni Griffi. La proposta è la tentazione di congelare le tredicesime per statali e pensionati. Ripeto, è un'ipotesi che circola. Se succede, succede, davvero qui c'è il rischio di una reazione molto molto intensa. Mettiamola così. Tentazione tecnica, niente tredicesime, così titola Libero a pagina 5. In pericolo le tredicesime, titola Il Secolo XIX, sempre a pagina 5. Tredicesime bloccate, gli esodati scaricati, titolo Il Giornale a pagina 4. Nuovo allarme tredicesime per gli statali e i pensionati, titolo Il Messaggero a pagina 9. Tredicesime, rispunta il blocco, titola L'Unità a pagina 9. La risposta del ministro Patroni Griffi è stata: non ne sapevo nulla, lo apprendo ora dalle agenzie. E l'accusa di molti giornali è una smentita un po' troppo morbida. Sarebbe stata più utile forse una smentita più secca, come dire non esiste questa ipotesi. Dire lo apprendo ora dalle agenzie, non ne so nulla, è una smentita forse sì in maniera un po' sobria, ma in questi casi forse ci vuole una smentita più secca, perché la comunicazione è importante. A proposito di statali, c'è una notizia invece sul Corriere della Sera, pagina 9, che riguarda una linea dura, questo è il titolo, linea dura sugli statali inefficienti, sanzioni per chi non rispetta i tempi. È un emendamento al decreto sviluppo che prevede questo, scrive Antonella Baccaro, tempi duri per il pubblico dipendente che non completi un procedimento nei tempi prescritti. È un emendamento al decreto sviluppo firmato da 2 parlamentari, Alberto Fluvi del Partito Democratico e Raffaello Vignali del Popolo della Libertà, introduce l'immediato deferimento dello statale, appunto, ai fini della valutazione che conduce alla sanzione. L'emendamento prevede che il nome del dirigente con poteri sostitutivi sia ben visibile nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza. E poi aggiunge che lo stesso dirigente, in caso di termini non rispettati, comunica senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare secondo disposizione del proprio ordinamento dei contratti collettivi. E se non lo fa, il dirigente diventa a propria volta responsabile dell'inottemperanza. Dice per esempio l'onorevole Vignali, uno dei due proponenti, le imprese scappano dall'Italia non per le tasse, nemmeno per l'articolo 18, ma per i tempi lunghi della nostra pubblica amministrazione. Dunque, questo è un emendamento che farà sicuramente discutere per quel che riguarda il pubblico impiego, linea dura sugli statali inefficienti, chi non rispetta i tempi, avvio della sanzione e pubblicazione del nome del dirigente che deve avviare questa sanzione. Se non lo fa, anche lui diventa inadempiente tanto quanto l'impiegato pubblico. E beh, mi piace questa idea. Finalmente un po' di trasparenza in più su questo tema. Veniamo alla politica. Parla per la prima volta in maniera ufficiale Nicole Minetti e devo quindi andare su un settimanale, in questo caso Chi. Tra l'altro, doppia lettura interessante dell'intervista, sia per le parole stampate, sia se volete per le foto a corredo dell'intervista. Certamente non sono un brutto vedere, ecco, diciamo così. Parla con Alfonso Signorini, Nicole Minetti, il direttore di Chi. E cosa dice in estrema sintesi? Perché le pagine sono 6 di intervista, anche se appunto lo scritto è abbastanza breve. Il presidente, cioè Berlusconi, non ha mai chiesto le mie dimissioni. Questo è importante dirlo. Ho pensato io, è nata tutta da me questa cosa. Perché mi vedo, digito su Google Nicole Minetti e penso, ma sono quella lì, il costume troppo ridotto in spiaggia, la bufala sulla mia intenzione di girare un film porno, la maglietta indossata senza reggiseno per strada, qualsiasi occasione è buona per spararmi addosso. Così dice Nicole Minetti. E mi chiedo e mi dico, adesso cosa faccio se domani volessi farmi una famiglia e volessi avere un uomo al mio fianco con l'immagine che mi hanno costruita addosso? Che succede? Insomma, si dimette o no? Chiede Alfonso Signorini. Se prima ero orientata alle dimissioni, dopo tutto quello che mi ha scaricato addosso, un po' mi sono incattivita. Comunque voglio tranquillizzare tutti. Se deciderò di dimettermi, lo farò prima di ottobre, così chiuderei la bocca a tutti quelli che pensano che mi dimetterò solo dopo che sarà passata più della metà della legislatura per prendermi la pensione. E poi sentite ancora, mi penalizza tantissimo il fatto di essere donna. La cosa che mi fa più male è la totale assenza di solidarietà femminile. Penso a Daniela Santanchè, oppure Alfano, che ha detto mi devo dimettere lunedì. Questo era un'intervista da domenica, ma non ha motivato la sua decisione. A volte mi guardo dall'esterno e mi chiedo che impressione ti fa la Minetti, cioè la Minetti chiede a se stessa che impressione ti fa la Minetti, e preferisco non rispondere a questa domanda. Forse anch'io avrei pensato quello che sono indotti a pensare i più per come è stata rappresentata la vicenda. E ancora sulle intercettazioni, se avessi avuto davanti a me un burrone quando sono uscite, mi ci sarei buttata a volo d'angelo. Ho alzato il telefono, ho chiamato Berlusconi, che lui ha definito anche con epiteti molto molto duri. L'ho chiamato, avevo paura, ma grazie al cielo lui è un grande, ha capito e mi ha perdonata. E infine, quindi, la conclusione. Ma allora, lui, Berlusconi, è ancora the love of my life, così lo chiamava, love of my life, quando lo chiamava. E Nicole Minetti dice, ma certo, e lo sarà sempre. Questa, senza dubbio, l'intervista del giorno di politica, la trovate su Chi, a Nicole Minetti, per quel che riguarda il resto della politica. Allora, tornando ai giornali, invece, ai quotidiani, si ipotizza l'idea delle elezioni l'11 novembre, per chi vuole seguire l'idea delle elezioni forse anticipate. C'è Di Pietro, un'Italia dei valori forse divisa in correnti. Sentite il titolo di Repubblica, pagina 15, la tentazione di Di Pietro, sciogliere l'Italia dei valori, forse a settembre. Tonino pensa a un listone civico del centro-sinistra e a un patto con Beppe Grillo, che per la verità ha detto non facciamo patti. Su cose ben più legate in qualche modo alla politica e ancora che fanno discutere, c'è poi tutta la novità legata alla trattativa Stato-mafia. Allora, ieri La Procura di Palermo ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio a 12 indagati per la trattativa Stato-Mafia. Trovate a pagina 21 del Sole 24 Ore, sotto il titolo Stato Mafia ha chiesto il processo per 12. È un processo sicuramente che almeno nel nome degli imputati per i quali la procura chiede il rinvio a giudizio c'è, non si può non notare, ci sono l'ex sindaco, il figlio dell'ex sindaco di Palermo Ciancimino, un generale dei carabinieri Mario Mori, l'ex colonnello dell'arma De Donno, l'ex capo del ROS Subranni e poi politici come Mannino, Calogero Mannino, considerato colui che iniziò questa trattativa per timore di proteggere la sua vita, Marcello Dell'Utri e poi Riina, Provenzano. Cioè è un processo, come scrive Repubblica, la prima volta che imputati così lontani figurano in una sola richiesta di rinvio a giudizio. Tra l'altro Repubblica intervista Calogero Mannino a pagina 2. Volevano uccidermi, ora divento accusato, è un teorema per cui mi tengono nel mirino dal 93. Annunciato l'avviso di garanzia, pensavo mi chiamassero questi PM, avrei dato il contributo della mia memoria, mentre con sbalordimento registro che da parte lesa, visto che Cosa Nostra voleva uccidermi, mi accusano per un'ipotesi di reato che non ha precedenti. Tra l'altro tutti i giornali fanno notare che la richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla Procura di Palermo, da il procuratore Ingroia e dai colleghi, non è stata invece firmata dal capo della Procura Messineo, è stata solamente vistata. Questioni forse tecniche di lana caprina, ma in realtà fa sapere anche il Sole 24 Ore con Marco Ludovico, oggi quella posizione già espressa un mese fa di non voler firmare è stata per certi versi confermata dal procuratore capo. Non appare più una questione di forma giuridica ma di sostanza. Compare il visto del procuratore capo di Palermo ma non la firma. Secondo fonti alla procura è una presa d'atto che non significa condivisione né assunzione di responsabilità. Insomma, allora molti si chiedono ma come una richiesta di rinvio a giudizio dei procuratori per la quale però manca la firma del procuratore capo, c'è solo il visto del procuratore capo. Sulla trattativa, sui 20 anni di presunta trattativa, anche il Corriere della Sera dedica 2 pagine, pagina 12 e 13, c'è anche appunto le foto delle 12 richieste di rinvio a giudizio, ci sono appunto Nicola Mancino, Marcello Dell'Utri, cioè politici, Calogero Mannino, ci sono uomini dello Stato, Mario Mori, Antonio Subranni. E poi ci sono i mafiosi, Bernardo Provenzano, Antonino Cinale, Luca Bagarella, Giovanni Brusca, Totò Riina, cioè tutti messi insieme in questa richiesta di rinvio a giudizio. Staremo a vedere. Devo dire che bisogna assolutamente aggiornare la tematica a sua insaputa, con questo voglio concludere, perché Marina Berlusconi, la figlia di Silvio Berlusconi, presidente di Mondadori, è stata chiamata dai PM di Palermo per i soldi che, dice la procura, sono transitati dai conti di Silvio Berlusconi a Marcello Dell'Utri, l'ipotesi di indagine di estorsione di Dell'Utri nei confronti di Berlusconi, e bisogna aggiornare a sua insaputa questa tematica perché, secondo i giornali, Marina Berlusconi ha risposto così. Leggo per esempio dal Corriere: Marina Berlusconi e magistrati, non mi ricordavo di quel conto corrente. Un conto corrente intestato a lei o cointestato a lei, da cui sono usciti 1.117.000 euro trasferiti in 2 tranche nel 2003 a Marcello Dell'Utri, lei non ne sa nulla. Sarebbe tutto avvenuto a insaputa della figlia dell'ex premier, che pure su quel conto aveva la firma. Avrebbe detto ai magistrati: apprendo di avere quel conto, l'ho preso dai giornali. E così, anche sulla stampa, Marina, IPM, i soldi dati a Dell'Utri, non so nulla. Incurante del famoso adagio cucito addosso al padre, non poteva non sapere, Marina Berlusconi dice tranquillamente di essere ignara di tutto, di non sapere perché il padre regalasse soldi a Marcello Dell'Utri, ma anche di non sapere di essere intestataria di un conto nel quale aveva la firma, dal quale sono usciti appunto 1.117.000 euro. Anche il Fatto Quotidiano, Marina Berlusconi, i soldi faceva tutto mio padre. Insomma, bisogna aggiornare appunto il conto corrente a mia insaputa. Mattino. Siamo qui alle 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, dopo la lettura dei giornali, voglio salutare l'onorevole Antonio Razzi del gruppo Popolo e Territorio. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Eccoci. A lei e a tutti i radioascoltatori. Ieri avevamo le gallerie abruzzesi che non ci hanno aiutato, ma insomma io l'avevamo chiamata perché per parlare di questo emendamento al Senato che è stato bocciato, con cui si volevano evitare i cambi di casacca in corsa nella legislatura. Lei ci aveva detto che era favorevole. Ma io l'ho firmato perché ce n'era uno qui che circolava qui alla Camera dei Deputati e io l'ho firmato. Perché, ma come? Ma... proprio lei? Cioè lei che ha cambiato, proprio... lei che era dell'Italia dei Valori, salvò il governo Berlusconi all'ultimo momento, ma uscendo. Siccome sono, non è che solo Antonio Razzi ha cambiato, ci sono più di 100, ma credo anche di più, parlamentari che hanno cambiato, da destra sono andata alla sinistra, dalla sinistra sono andata alla destra o al centro, insomma, c'è stato un grande movimento. Fino a che è così che la legge lo permette, ognuno, siccome poi uno è eletto al Parlamento, almeno io sono stato eletto con le preferenze dai cittadini italiani residenti in Europa. Perché lei è stata eletta all'estero, ricordiamo. Io sono stato eletto all'estero e sono stato eletto con le preferenze. Cioè, quindi hanno dovuto scrivere Razzi. Bravo. Io mi meraviglio, rimango anche sorpreso come lei o magari come tanti radioascoltatori, quelli che sono stati nominati dalla segreteria di partito o dal presidente, perché io credo che uno che viene nominato è una persona veramente vicina al partito e deve star fedele al partito. È una persona di fiducia. Però mi scusi, onorevole, anche allora a maggior ragione si può ribaltare il discorso: quelli che prendono le preferenze, come lei le ha prese? Cioè, uno è andato a votare perché sapeva che lei era iscritto all'Italia dei Valori, cioè si presentava, perfetto, con l'Italia dei Valori, e quindi magari voleva dare il voto all'Italia dei Valori. E poi lei ma io da mesi prima mi consigliava con quelli che mi hanno aiutato alla campagna elettorale, mi consigliava, ho detto guarda che succede questo, mi è impossibile stare ancora seduto in quella sedia, in quel partito. Perché? Mi hanno detto guarda, anche per noi l'abbiamo fatto per te, ma se tu lo vedi così... vattene, che problema c'è? Ma chi glielo diceva? Cioè, chi glielo diceva? Ma i miei amici, specialmente quelli in Svizzera. Ah, perché è stato eletto in Svizzera? Però scusi, ho lavorato per 40 anni, ho fatto l'operaio in Svizzera. Però lei è stato un po' colpito sulla via di Damasco, no? Il 14 ottobre 2010, due giorni prima della famosa fiducia, eccetera, lei cambiò altri, lasciando l'Italia dei Valori e salvò l'allora governo Berlusconi. Ma io credo che è stato anche un segno di responsabilità, perché io credo che in quel momento dove c'era una guerra civile in Libia, si parlava della crisi che ancora oggi c'è, io credo che andare alle votazioni in quel periodo lì era una cosa micidiale. Si parlò pure del mutuo, lei ha sempre smentito, cioè che le offrirono di pagare il mutuo. Vedi, io credo che molte volte viene fraintese, poi uno magari lo dice come vuole. A suo tempo, a settembre, prima ancora, dove sono stato avvicinato per cambiare, e ancora prima di consigliarmi, ripeto, con i miei amici, gli ho detto guarda, a me mi converrebbe cambiare magari per qualcosa di meglio, ma siccome io dico ho un mutuo da pagare, pur che ho quello, non cambio. Non cambio per un mutuo. Cioè, e poi dopo tre mesi ha cambiato. E ha cambiato invece per che cosa dopo tre mesi? No, per niente. L'ho fatto per un senso di responsabilità. Perché il mio ex partito, almeno per quanto concerne gli italiani all'estero, non gli interessava. E allora dico io vado da una parte perché io voglio lavorare per quelli che mi hanno votato, quelli che mi hanno dato il mio collegio. E che però volevano l'hanno votata per l'Italia dei Valori. Cioè capisce che c'è una contraddizione un po' in questo. No, ma vedi molti amici erano chi del PD e chi del PDL. Me l'hanno dato a me, mi ha detto, dice ma guarda, ma io il segno sul simbolo dell'Italia dei Valori non lo faccio. Ma io ho detto, ma l'importante è che al lato ci scrive Antonio Razzi, tanto viene a me la preferenza, cioè non è che ci sono quelli di cioè chi se ne frega del partito, basta che scrivi Antonio Razzi così vado io. Bravo, ma io dopo mi ha detto uno di Lugano, mi ha detto, dici, ma guarda, ma io sono di Forza Italia, al Senato voto cioè PDL, dici, voto PDL, dici, ma che me ne frega a me, vota chi ti pare, l'importante è che lo dai a me alla Camera. Cioè, ma come vota chi ti pare? Cioè gli ho detto, ma voti pure il PDL al Senato, basta che scriva Antonio Razzi per la Camera, basta che gli vota. Ma guarda, all'estero è così, all'estero è molto difficile che sì, c'è quelli che hanno la sua parte politica, ma molti vanno per l'amicizia, vanno a votare perché quello perché è un amico. Perché ti conosco, ecco. Certo. Senta, ma lei quando si parla di Volta Gabbana, mercato delle vacche, mercato dei voti, compravendite, venduti, che ne pensa? Come si transfughi, come si definirebbe? Ma guarda, molte volte, specialmente quando vado in giro per Pescara, che io vivo a Pescara, sento qualcuno che mi dice venduto, ma io credo, io a questi qualcuno o qualcuno che, o qualcuna, magari mi si ferma e mi dice, ma onorevole, come mai? E io gli racconto tutta la storia. A parte che la mia storia è sul mio libro Le mie mani pulite, presentato da Silvio Berlusconi, più c'è il segnalibro dell'amico Vittorio Sgarbi. Presentato da Silvio Berlusconi e Vittorio Sgarbi, effettivamente. Ecco, allora, io credo che uno dice, ma guarda, me lo voglio leggere, se qualcuno cosa glielo regalo pure io, se io me la compro io glielo regalo, ma giusto per dire, leggilo e poi vedrai. Dopo tutte le offese che ho ricevuto, magari tutto quello che ho ricevuto, poi alla fine dici, guarda, gli volevo pagare il caffè, adesso gli pago la cena, perché si fa pagare, si fa pagare le cene così. Però scusi, ma lei stava nell'Italia dei Valori, adesso è venuta a presentare il suo libro a Silvio Berlusconi, cioè capisce che c'è qualcosa che un italiano che pensa, cioè che è stato votato da una parte, poi va a braccetto con Berlusconi. Io credo che, io ripeto, come quello che le dicevo prima, il partito non conta niente, io credo che il cittadino deve valutare la persona. Oggi destra, sinistra, c'è di buono e c'è di male in tutte le parti, allora io credo che il cittadino dovrebbe valutare la persona che lo rappresenta e che lo può rappresentare al miglior modo possibile. Questo è il vero partito, è la persona. La persona. Cioè uno dovrebbe, ma se non si possono votare le persone, c'è una legge elettorale che non si possono neanche scrivere i nomi, quindi che dovremmo fare? Questo adesso è che l'emendamento che è passato proprio ieri al Senato, dove si incomincia col Presidente della Repubblica, dove va la parola ai cittadini, questo è una cosa straordinaria, perché almeno si può scegliere il Presidente della Repubblica, il Presidente di tutti gli italiani, dove tutti gli italiani lo scelgono. Beh, lo scelgono, mica lo voto io il Presidente della Repubblica, lo votate voi al Parlamento. No, lo so, ma adesso quell'emendamento che dove c'è stato il presidenzialismo al doppio turno, è una cosa fantastica, ma per tutti gli italiani, io credo che questo bisogna tenere stretto, perché deve decidere gli italiani chi lo deve rappresentare per il mondo, perché il Presidente della Repubblica, diciamo, rappresenta l'Italia nel mondo. Ah beh, questo sì. Senta, ma lei l'ha pagata l'IMU? Perché io avevo letto un giallo sul fatto che lei aveva presentato una proposta di legge per non far pagare l'imposta sugli immobili per i cittadini iscritti all'anagrafe, per i residenti all'estero come lei. Bravo, io l'ho pagato perché siccome però io... non la voleva pagare, cioè voleva fare questa legge, ma come poi lei... Questa legge non era per me, è per tutti gli italiani all'estero, che mi sembra una cosa corretta. Però, onorevole, anche lei però ha iscritto, capisce, sembra una legge fatta anche per lei. Insomma. No, ma perché io ho due case, una casa che ho ereditato dai genitori. Ma in Italia, tutte e due. E più c'è l'appartamento, allora avendo due io lo devo pagare per forza, ma io non l'ho fatto per me, l'ho fatto per i cittadini italiani residenti all'estero. Ho capito, lei l'ha fatto per i cittadini italiani residenti all'estero, tra cui c'è anche lei. Ma ripeto, ma io lo pago perché ho due case, volendo o nolendo, io ho due case, però sono all'estero, ho due case. La pagava però non è giusto prima la pagava sulla seconda, adesso le ha messa anche sulla prima, adesso le deve pagare no, io ho pagato quasi 2000 euro, figurati, quasi. Non è che ma perché perché voleva togliere, cioè, il pagamento degli immobili per gli italiani all'estero che hanno una casa in Italia? Cioè l'IMU si paga a Molici per una casa che insiste in Italia, sul territorio. Ma io credo come tutti i cittadini italiani che hanno una sola appartamento e che gli serve scopo solo familiare, io credo che non lo deve pagare. È una cosa, perché purtroppo se un giovane e una giovane si vogliono unire e vogliono formare una famiglia, è un diritto, perché non devono pagare l'ICI o adesso l'IMU, come si chiama ora? Io credo che chi ne possiede uno, due, o che magari c'ha due appartamenti, o c'è una casa di due, tre piani, che lo paga, no, perché vuol dire che è benestante. Ma no, cioè, vabbè, ma lei, questo è un principio che lei contesta, l'idea dell'ICI, come molti italiani, però non capisco perché un italiano residente all'estero che ha una casa in Italia non debba pagare l'ICI sulla casa in Italia, invece, cioè, che favore è nei confronti? Ma vedi, per invogliare quelli che non ce l'hanno, per invogliare a investire in Italia per lo scopo. Magari uno dice io non pago, guarda, come dire, io ne avevo parlato anche col presidente Berlusconi, che dicendogli quello mi ha detto hai ragione, perché se uno che risiede all'estero non ha un appartamento per andarci in vacanza, mandarci i loro figli, mandarci i loro nipoti, e investe magari 200-300 mila. Se non deve pagare l'IMU ci investe. Senta, devo chiedere un'ultima cosa. Di Pietro, mi dia una sua definizione, un aggettivo su Di Pietro, che ora scioglie l'Italia dei valori, forse, chi lo sa. Ma guarda, io io sono stato quasi 15 anni con lui, ha avuto un rapporto magnifico. Io non so, dal 2000, ecco sul mio libro le parla, io non so da quando sono stato rieletto al 2008, non mi salutava, pur essendo parlamentare, non mi salutava, non c'è stato più un rapporto. Io credo che è come una coppia di famiglie, un marito, moglie e marito che si separano, perché non c'è più un rapporto. E uno, non avendo più un rapporto con il suo leader, che dove lui magari lo amava, lo adorava, era come un profeta, era un profeta per lei Di Pietro, prima. Mi sembrava una cosa, ecco, ma dopo non c'è stato più questo rapporto, adesso il mio profeta è Berlusconi. Ah, ecco, perfetto. Vabbè, si fermi qui, perché questa frase non c'è bisogno di aggiungere nulla sul tema di cui abbiamo parlato. Onorevole, io la ringrazio, Antonio Razzi, per essere stato con noi, Popolo e Territorio. Il mio profeta era, a tutti i radioascoltatori. A lei, grazie. Il mio profeta era Di Pietro, ora il mio profeta è Berlusconi. Che dobbiamo aggiungere? Come dire, Peppone, com'è, Don Camillo e Peppone, diavolo all'acqua santa, poi metteteli voi dove volete. Il mio profeta era Di Pietro, ora il mio profeta è Silvio Berlusconi. Ecco. Poi ieri abbiamo parlato appunto di trasformismo politico. L'onorevole Antonio Razzi di Popolo e Territorio. Oggi ancora La Stampa con Paolo Baroni a pagina 13. Il puzzle impossibile nell'Italia dei campanili. Forse ci saranno da 107 attuali a 46 province. Il governo ha stabilito due criteri: 350.000 abitanti, 2.500 km di superficie. Chi non rispetta questi criteri deve accorparsi. Saluto il presidente della provincia di Bergamo, Ettore Pirovano della Lega. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, presidente. Buongiorno a lei. Così come saluto Clemente Mastella, eurodeputato dell'Udeur. Buongiorno Mastella. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo letto che lei ha chiamato direttamente il ministro Patroni Griffi. È vera questa cosa? Perché lei Cepaloni e Benevento. E Benevento si accorperà ad Avellino. Intanto, come stiamo a rivalità Avellino-Benevento? Va bene? Guardi, questa mi pare una. Piano mediatico, cioè io come parlamentare ho soltanto attinto alla fonte, in questo caso la fonte primaria, il ministro della funzione pubblica, quindi cioè ho chiesto quali erano i criteri, i criteri che hanno ispirato le scelte, al di là della superficie quadrata, al di là degli abitanti, che cosa veniva fuori laddove c'erano due realtà che finivano per intrecciarsi e per combinarsi, il caso di Benevento e d'Avellino, il caso di della Romagna, il caso, mi è stato risposto che laddove c'era questo tipo di combinazione veniva fuori che la città capoluogo sarebbe stata quella che aveva maggior numero di abitanti. Questo quindi, punto è basta. Benevento. Quindi, lei ha voluto appurare direttamente alla fonte. Questo che vale per che Benevento come vale per altri, certo. Cioè vale dovunque, cioè, quindi è un criterio che non è che vale per Benevento, cioè questa cosa di farmi apparire ogni volta come quello che fa pressioni alla materialità territoriale. Certo che sono, come dire, con le stime della mia provincia, perché ritengo il parlamentare che non esprima questa sua territorialità, come vede, è un parlamentare che dimostra il grado di passività sul piano delle vicende del rapporto governo-istituzione parlamentare. Quindi lei ha fatto una sua legittima, come dire, una richiesta, ha voluto sapere, essere assicurato che Benevento sarà il capoluogo. Spiegazioni, Sì, no, rassicurato nel senso che la legge prevedesse così, insomma, è stato più soddisfatto dopo la telefonata immagino al ministro, perché guarda che Patroni Griffi ha fatto un'intervista ieri a Repubblica e ha detto, senza citare nomi, mi stanno chiamando a destra manca per difese di particolarismi, c'è chi dice metti il capoluogo qui, c'è chi dice almeno cancella la provincia vicina ma salva la mia. Non lo perché non è che sono neppure oggi nel recinto parlamentare italiano, quindi non è che possa produrre sforzi tali o creare problemi inconvenienti a un ministro, possono fare eventualmente i parlamentari che sono nelle aule del Parlamento italiano, io certamente no. Mi pare che sia un criterio, ho chiesto qual era il criterio, perché non è che valga per Benevento sì e per altre no, cioè è un criterio, come si fa, ho chiesto solo, posto una domanda, se vuole come cittadino, sì. Come si fa a stabilire laddove c'è l'integrazione, qual è la città capoluogo, visto che diventa la sola provincia e più province che c'erano prima, questo mi pare una cosa normalissima, è stato risposto che il criterio era quello del maggior numero di abitanti. Quindi Benevento, Benevento rispetto a Venezia. Allora ci sta Benevento, no, vabbè, per Forlì, ho capito, lei si sarà informato per Benevento. Tra Livorno e Pisa non so chi ha maggior numero di abitanti, cioè vale per tutti, perché lei la riposiziona sempre su questo tasso, diciamo, di mia legittimazione. Ma no, voglio dire, ma lei l'avrà chiesto per, sarà stato interessato, ma non c'è nulla di male per Benevento, cioè se no non l'avrà chiesto per Livorno e Pisa, sarà stato ma più interessato per Benevento. Ma io non sono oggi eletto a Livorno e Pisa, quindi come tale. Appunto. Cioè, solo che mi pare abbastanza evidente che non è che il ministro potesse fare una concessione a me, da questo punto di vista. È un criterio, come hanno fatto il criterio del numero di abitanti e i chilometri quadrati, l'altro criterio è laddove c'è questa combinazione la città a capoluogo diventa quella che ha maggior numero di abitanti. Infatti, è una cosa di natura elementare. No, ma infatti, ma lei ha preso questa informazione, ma non si arrabbi, cioè voglio dire, il fatto che lei abbia chiamato per sapere... c'è Paloni, Benevento, eccetera, questa cosa mi ha rotto un po' le palle, devo dire la verità. Non è che... le ha rotto un po' le palle, vabbè, allora sentiamo il presidente della provincia di Bergamo, dove invece, non so, forse si è rotto un po' le palle anche il presidente della provincia di Bergamo, perché ieri credo abbiate dato informativa di uno studio che oggi è ripreso da qualche quotidiano, per cui ci spieghi un po', presidente, com'è la questione dei tagli. Voi dite praticamente che si tagliano di più le province sprecone rispetto a quelle virtuose. Com'è sta storia? Beh, basta andare a guardare sul sito del Ministero, vedere quanto è la spesa di ogni provincia, vedere quant'è la spesa del personale e qual è la sua proporzione. Per esempio a Bergamo la spesa per il personale è il 22%, a Enna è l'85%, e i tagli sono fatti su quelli che sono definiti consumi intermedi, che sono nient'altro che i servizi ai cittadini, e non c'è nessuna influenza sulla buona gestione dei costi. La famosa spending review taglia praticamente, chi spende meno per i dipendenti deve tagliare i servizi ai cittadini. E quindi è una cosa che va al contrario, lei dice. È una cosa che è lì, è da vedere, c'è anche un articolo su Italia Oggi, mi pare che qualcosa Italia Oggi sappia degli enti locali. Sì, infatti ce l'ho proprio qui davanti, a pagina 5, la spending review premia gli spreconi. Senta, però Bergamo sarà salva, perché ci sono i criteri, sono stabiliti, mai accorparla a Brescia, per esempio, sarebbe stato no, un disastro. Guardi, il problema non è salvare quali siano le province da salvare e quali no. Innanzitutto è giusto che si facciano delle fusioni, però vorrei pensare anche a delle regioni come il Molise, che ha 319.000 abitanti e due province, ed è, cioè non ha neanche il minimo degli abitanti per essere una provincia, però è una regione con due province. Il problema è come fare a gestire i servizi con questi tagli, perché sono tagli assolutamente lineari che non tengono conto che bisogna andare a tagliare i trasporti pubblici, l'assistenza sociale, indipendentemente da come vengano spesi i soldi. Ma senta, oggi, la provincia davvero serve? Lo faccio una domanda a lei che ha lasciato, credo, il Senato, adesso non so se il Senato o la Camera, per continuare a fare la Camera, per fare il presidente della provincia, appunto, di Bergamo. La provincia non serve perché si chiama provincia, è un organismo intermedio. Ovviamente non serve in Molise, dove ci sono 320.000 abitanti, 130 comuni. Ma che si fa? Una legge speciale per il Molise? No, si faccia una legge che dice che anche le regioni devono avere una certa dimensione. Ma una regione come la Lombardia, con quasi 10 milioni di abitanti, dove in provincia di Bergamo ci sono 244 comuni, da quello di 58 abitanti a quello di 130.000, un ente intermedio, chiamatelo come lo volete, che ha faccia da intermediario tra la grande regione che è praticamente uno Stato più grande della Svizzera, e il piccolo comune che ha necessità spicciole, questo ci vuole assolutamente l'organizzazione territoriale. Poi la si chiami come si vuole, la si faccia grande come si vuole, ma un organismo dove ci sono degli eletti, non come vogliono fare oggi con questa legge, praticamente fa diventare delle bocciofile le province. L'esempio è Bergamo, se dovesse passare la legge sulle sì. nuove, il nuovo governo delle province, i 244 comuni che valgono ciascuno uno indipendentemente dal numero degli abitanti, quindi Blello 78 abitanti vale uno, Bergamo 130.000 abitanti vale uno, questi 244 eleggono, scelgono 16 consiglieri provinciali, i quali nel loro interno o in uno degli altri sindaci identificano il presidente e lo nominano come se fosse il consiglio d'amministrazione di una bocciofila. Una bocciofila, cioè vogliono trasformare. Però guardi, proprio questo stesso governo, molto osteggiato dalla Lega, forse avete trovato una sponda del ministro Giarda, che in una mail ha scritto: spero che il Senato riveda e sia più saggio di quanto è stato il governo, cioè il governo di cui lui fa parte. Lei avrebbe mai pensato di poter avere un aiuto da un ministro del governo Monti? Ma io penso che le persone di buonsenso ci siano esattamente ovunque, come i cretini ci sono ovunque, spalmati su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla latitudine. Ed è, io sono, il mio razzismo è con i cretini, non è con quelli che abitano a Napoli o a Belluno. Le dico che non è una questione di Lega, è una questione, le province, tutte, ci siamo trovati lunedì a Verona, tutti i presidenti di Veneto, Lombardia e Piemonte. Sì. C'erano tutti i presidenti, non c'erano quelli della Lega, e tutti hanno gli stessi problemi. E le assicuro che sono problemi concreti, basterebbe che Monti parlasse con qualcuno della Bocconi, che pare che lui conosca, o più parlasse meno, sì. con... Dovrebbe conoscere. Dovrebbe conoscere, sì. Ha fatto un rapporto la Bocconi dicendo che è un'assurdità dire che ci sono dei risparmi, ma come ha fatto anche l'Ufficio Studi del Senato, tagliare le province... Non si risparmia un tubo, è evidente, perché i servizi comunque qualcuno li deve fare. È che loro tagliano i servizi in questa spending review, sì. non tagliano i costi. Su questo però mi faccio tornare, dopo il traffico, da Clemente Mastella, vorrei capire anche un attimo qualche considerazione politica attuale vista da un uomo protagonista per tanti anni, soprattutto nel centro della politica, ora un po' magari ai margini, se non altro anche fisici, all'Europarlamento. Sa, però molti italiani, presidente Pirovano, pensano che senza le province si può vivere benissimo, i servizi verranno distribuiti a regioni, comuni e si toglie anche tante poltrone legate alla politica, ma magari sbagliano gli italiani. Francesco da Torino ci ha chiamato, buongiorno Francesco. Buongiorno dottor Milan. Che ne pensa? Volevo fare un intervento che unisce un po' gli interventi sì. dell'onorevole Mastella e quello del presidente della provincia di Bergamo. La premessa è che Benevento è stato un enclave dello Stato Pontificio dal 1100 circa fino al 1860 nel Regno delle Due Sicilie. Questa è una particolarità storica, quindi per usare un'immagine, una proporzione, e che c'entra? Benevento sta a Napoli come Lugano sta a Milano. Per mantenere questa specificità e forse non fondersi con Avellino, c'è una vecchia proposta sul tavolo che consiste nell'unione della provincia di Benevento al Molise, ricreando l'antico Sannio. In questo senso, Benevento, unendosi È un dotto professore, cioè io queste cose sono l'ascolto con ammirazione, sono cose vissute dai cittadini della provincia di Benevento, che hanno la sua antica specificità, e ha una, come dire, è un unicum rispetto alla Campania. Tra l'altro è collegata anche male, manca proprio. Ho capito, ma cioè quindi lei la metterebbe nel Molise, ma salvando, cioè qua c'è un criterio che è stato stabilito, che ha un criterio con dati oggettivi, non è che possiamo dare anche criteri storici su. No, il criterio è che la popolazione di Benevento, unendosi a quella del Molise, soddisferebbe alla richiesta del presidente di Bergamo. Ah, quindi per salvarla, insomma. Per salvarla e per mantenere questa unicità, ricreando appunto questo antico Sannio. No, va bene, Francesco. Non so, guardi, qua l'ascolta Clemente Mastella, che ne sa, immagino, tanto quanto lei sulla questione storica. Le piace questa idea, Mastella? Potrebbe essere un salvataggio andare al Molise. Quindi. È una cosa che io vado proponendo da anni, cioè nel senso che nella revisione della geografia istituzionale regioni piccole rischiano di essere in difficoltà, mentre invece con l'integrazione di Benevento col Molise diventa una regione, diciamo, molto più in là di quanto sia la Basilicata ed altre regioni italiane. Cioè quel Molise che il presidente della provincia di Bergamo vorrebbe cancellare come regione. Ora, io però mi consenti di tornare su un dato, sì, che è questo. Io faccio una considerazione, a parte il fatto rispetto ai sacerdoti, diciamo, dei tagli, che sono soprattutto nelle università del nord, in particolare a Bocconi, faccio questo tipo di considerazione. Si ritiene che l'istituto intermedio delle province siano spendaccioni, non servono ai fini del rapporto con i cittadini, si eliminano tutte, mi pare una logica molto semplice e molto seria. Si ritiene invece che bisogna spendere di meno perché costano, lei mi deve spiegare se costa di più la provincia di Milano o quella di Pavia o quella di Bergamo, mi consentirà Pirovano, lo dico per paradosso, o quella di Benevento, cioè anziché tagliare le province grosse si eliminano quelle piccole che hanno una identità non soltanto in alcuni casi storici, come ha ricordato il radioascoltatore di Torino, ma hanno anche, diciamo, un rapporto con il territorio, soprattutto quando il territorio è frastagliato, come nel caso della provincia di Benevento o altre province. Parlo di Benevento perché la conosco di più, non soltanto per motivi di affetto, di legittimazione di affetto. Questo mi pare abbastanza evidente. Però la legittimazione, la legittimazione storica prima, ha bisogno di una provincia, di un'istituzione. E è questa. Lei ha detto prima, in questo paese sento dire i professori, i troppi campanili campanilisti. Scusi, ma noi siamo nati, non come nazione, come è nata, ma questo storici, scusi, consentirà un mio retropensiero di natura storica e filosofica, essendo laureato in storia e filosofia, secondo Chabot, noi non nasciamo come nazione, noi siamo stati forti in Europa per i campanili, per i comuni, per le municipalità e quindi anche per le province che erano correlate a questo. Ora, eliminare ed estirpare questo, che è anche un dato di natura democratica, è una forma di aberrazione. Però, Mastella, lei che sta nell'Europarlamento, la storia, scusi, va avanti. Il Senato non sa quantificare, ha chiesto al governo, quantificate qual è il tipo di spese in meno che viene fatta, il governo non è in grado di farlo. Però, mi scusi, Mastella, 70 anni fa... Dobbiamo eliminare 700 milioni, ma d'accordo, i sacrifici eliminati. Però, tanti anni fa non c'era l'Unione Europea, adesso c'è l'Unione Europea, cioè la storia si evolve, prima c'erano i campanili, c'erano i comuni, le province, adesso c'è cioè, si parla di Europa. Caratteristica, non la elimini questa, cioè tu la puoi soltanto della modernità. Ma nessuno cancella la storia. Non è che elimini completamente. Ma nessuno vuol cancellare la storia. Tipo mettiamo Fermo, tipo Verbani Valdossola, una serie di province piccole che forse non andavano fatte in quella circostanza, ma non eliminare quello che c'era storicamente. D'accordo, però onorevole, ma soltanto razionalizzare determinate alcune condizioni. Ma mi faccia dire questo, onorevole, a fronte di un rischio di democrazia, l'ha detto anche Pirovano, come si fa a eleggere successivamente il presidente d'accordo della provincia? Con i sindaci, però, cui ognuno vale uno, tot gatti. Onorevole Mastella, mi scusi, c'è l'idea di che togliendo la provincia si vuol cancellare la storia, i campanili, ma non è così, si vogliono cancellare delle poltrone, dei presidenti e basta. Perché vi è anche l'economia locale su questo, sulla provincia. Chiedete i risparmi alle province, se le province sono in grado di farlo, i risparmi che il governo chiede restano in piedi, se no no. Questa è la democrazia, è una forma di partecipazione. No, ma è chiaro, Pirovano... Noi siamo arrivati al punto tale che il governo italiano ha paura finanche di dire, come il caso di ieri con la lettera che la Spagna chiedeva all'Italia e alla Francia, di dire alla Germania e all'Unione Europea, facciamo quello che abbiamo definito. Ma cioè quella è stata una gaffa. Il Parlamento è passivo col governo, il governo italiano è passivo rispetto all'Europa. Questa è la ragione della crisi profonda che stiamo vivendo. Allora, no, Pirovano, mi salvi lei. No, ma è che l'idea di Mastella a dire bisogna cancellare le province grandi, invece si cancellano quelle piccole province che hanno storia, che hanno, sì, a parte le piccolissime, effettivamente nate poi neonate, e giustamente quella è stata un po' delle. Vogliamo riportare il problema su il servizio ai cittadini. Se sono da cancellare le province, cancelliamo le tutte. Ma è da vent'anni che si dice cancelliamo, forse è un modo per iniziare a fare qualcosa, perché si è capito che cancellarle tutte non si può, non si riesce. No, ma al di là che non si riesce, più piccole, scusi. Riesco a dire qualcosa, Mattella? Sì, sì, Pirovano, dica. Allora, se non servono le province, cancelliamole tutte, rivediamo anche alcune regioni per fare in modo che ci sia almeno una massa critica decente. La Molise ha 320.000 abitanti, non ho niente contro questi abitanti, ma non può essere una regione, ce ne stanno quattro di Molise nella provincia di Bergamo, non ha senso. E anche però in altri paesi europei ci sono i Länder, ci sono degli organismi intermedi, Non è questione di costi, sappia che in provincia di Bergamo la parte politica costa un caffè all'anno per ogni cittadino. Ma le volevo dire due numeri: il costo del personale della provincia di Bergamo è 24 milioni di euro e ha 1.100.000 abitanti. La provincia di Palermo, che ha 100.000 abitanti in più, ne ha 1.200.000, sì, spende 55 milioni di euro. Quindi più del doppio, quasi il doppio. Allora, questi cittadini perché non si incazzano? Cioè, un cittadino della provincia di Palermo paga 45 euro, ciascuno paga 45 euro per mantenere i dipendenti. Quindi lei dice che la vera razionalizzazione sarebbe sulla spesa, spese standard e non... In Italia ci sono quasi 5 milioni di dipendenti dello Stato, con 60.000 abitanti. Negli Stati Uniti, 300.000 abitanti, c'è 1.800.000 dipendenti dello Stato. Noi non siamo ancora uno Stato federale, purtroppo, però io le dico che se in Italia il comune dove io ho fatto il sindaco, che è Caravaggio, sì, ha 17.000 abitanti e ha 85 dipendenti, in Campania o dalle parti dell'ex ministro Mastella, ci sono comuni uguali che hanno tre volte tante. Senta, ma è vero Pirovano che lei ha sfrattato la prefettura? Vuol dire almeno noi cacciamo la prefettura? No, io ho semplicemente utilizzato il decreto della spending review, che dice all'articolo 3,3 gli enti pubblici possono disdettare tutti i contratti in deroga alle norme contrattuali entro il 31 dicembre. Siccome la prefettura, se io non la mando via dal 1 gennaio dell'anno prossimo, non pagherà più l'affitto, perché la spending review prevede che restino gratis tutti gli organismi dello Stato, sì, io perdo 500.000 e creo un danno erariale al mio ente. E allora in quegli spazi, 2.600 metri quadrati la prefettura Bergamo occupa, sì, ci metto due assessorati che adesso sono in affitto. E che fa? Dice al prefetto, scusi, sloggi che qua... Beh, guardi, a Bergamo c'è, tra l'altro c'è quel grosso problema della scuola di magistratura, per la quale abbiamo già speso 1 milione di euro, perché il governo ha firmato con noi, con la provincia e col comune, i contratti. Adesso il ministro Severino ha detto scusate, niente, non se ne fa più niente, si va a Scandicci, e quindi c'è un edificio perfettamente ristrutturato, restaurato, con l'aria condizionata nuova, e la prefettura può andare lì, il contratto d'affitto è già in essere, deve solo... Devono spostarsi. Sì. Tra il Ministero della Giustizia. Capisci che sembra un po' una lotta, un po' Roma, provincia, cioè, no, però vorrei c'è un gesto. Spending review che dice che io posso, tutti i presidenti di provincia e di comune possono disdire i contratti, sia quelli passivi che quelli attivi. E io lo faccio, rispetto al decreto. Intanto staremo a vedere come va a finire questa vicenda dei campanili o non campanili. Vi ringrazio Clemente Mastella, onorevole eurodeputato dell'Udeur, e Ettore Pirovano della Lega, presidente della provincia di Bergamo. Che dire, con Franco Piantanida qui in redazione, Elisabetta Fusconi in redazione, grazie a voi anche il nostro Fabio Cantadori in regia. Ti ritrovo nei prossimi giorni? Sì, ti ritrovo nei prossimi giorni. Allora, @AlinoMilan su Twitter e anche @24Mattino, ci ritroviamo domani alle 7:20. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, ha tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari fanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco ad prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.